JF. I know you're gonna dig this. Straight out of Diamond Star Production. Come puoi saper amare se non hai mai provato odiare? Come puoi saper odiare se non hai mai provato amare? Come puoi saper amare se non hai mai provato odiare? Come puoi saper odiare se non hai mai provato amare? Maledette emozioni mi fottono per giunta, mi dettano pure nozioni. Sono soffocato dalle pare, ogni ora mi convinco sempre di più che amo odiare, odio amare. Mando a fanculo il resto, sai che io c'ero nonostante tutto questo. Se la mia promessa era per sempre, la gente sa che io mantengo le promesse. Non per niente, la tua promessa era per niente. Per troppo tempo ho avuto il bisogno di chiudermi fra le quattro mura del nostro tempio. Maledette emozioni mi avete riempito di carezze, frustato e colpito per farmi correre fra le gazzelle. Leggo notizie sulle gazzette, barzellette che non fanno ridere, creano incurvature strette, le mani congiunte stringono il mio cuore. Appartengo solo a te, tu mi hai cambiato, questo ti fa onore. Come puoi saper amare se non hai mai provato odiare? Come puoi saper odiare se non hai mai provato amare? Come puoi saper amare se non hai mai provato odiare? Come puoi saper odiare se non hai mai provato amare? Ti ricordi quando mi dicevi ci sarò per sempre? Ti ricordi quando il nostro mondo era chiaro e splendente? Ti ricordi le carezze? Ti ricordi le fusioni? Ma ora son rimasti solo ferro e fuoco ed illusioni. Il mio cuore è un hotel, la gente entra ed esce come vuole, lasciando tutto in disordine. Io sorseggio caffè amari in quanto il gusto della dolcezza non so neanche che cos'è. Le ali si sono spezzate, adesso torniamo a terra. Gli occhi non brillano più, non amano più come prima. E adesso cosa credi? Che mi inginocchi e preghi per fottute reazioni, maledette emozioni. Ho smesso di fare il giocattolo da troppo tempo. Le tue mani è da burattinaia, buttale nel cesso, perché non puoi buttare la vita, è un orgoglio, ingoio le ultime lacrime prima. Come puoi saper amare se non hai mai provato odiare? Come puoi saper odiare se non hai mai provato amare? Come puoi saper amare se non hai mai provato odiare? Come puoi saper odiare se non hai mai provato amare? Ho i segni della frusta sulla schiena, mica l'ultima scema, voleva sempre il bacio all'ultima scena. All'ultima cena mi ha tradito Giuda, giura che almeno non farai come Giuda con Cristo. Ma non me la racconti giusta, mi hai sempre usato, gettato e scartato via come fossi una semplice busta. Hai sempre voluto coccole e attenzioni, ma per una volta prendi calci in culo senza provare emozioni. Maledette troie, le voglie che avete mi fan venire voglia di ammazzarvi sopra le doghe, di notte parlo alla morte. Da poco mi ha raccontato che il suo passato senza emozioni se l'era vissuto al massimo. Perciò sti cazzi se rimpiazzi i sentimenti, mi hai ferito talmente tanto che provi solo pentimenti. Dimmi solo se ci hai provato gusto, perché io repo di gusto, ma nei tuoi confronti provo solo disgusto. Come puoi saper amare?